Disco Dallas senza mana. Povere bestie, studenti fuori corso, occhi fissi al cielo, pendolari a Milano e vecchi chiusi al bar. Povere bestie, adolescenti sprecati, precari da una vita, giovani senza esperienza, lettori senza matita. Povere bestie, senza sensi di colpa, con la partita IVA, aperitivi a risparmio, stagisti senza età. Povere bestie, dottori in ogni cosa alla deriva, con la bava alla bocca, leccarsi un'altra ferita. Povere bestie, studenti fuori corso, occhi fissi al cielo, pendolari a Milano, vecchi chiusi al bar. Povere bestie, per sempre fuori posto, ad inventarsi il vuoto, per tenere lontane le bestie come noi. In ritardo da una vita, giovani sempre in partenza, artisti in cattività. Povere bestie, addormentate, represse, distratte dalle mode, senza chiedersi se davvero qualcuno abbia scelto per noi. Povere bestie, studenti fuori corso, occhi fissi al cielo, pendolari a Milano, vecchi chiusi al bar. Povere bestie, per sempre fuori posto, ad inventarsi il vuoto, per tenere lontane le bestie come noi. Dove andare per avere una meta, una direzione, un'altra soluzione. Povere bestie come noi, senza un posto in cui tornare, perché non sia mai stato un castigo che ci tenga l'uno accanto all'altro. Povere bestie come noi, senza un posto dove stare, senza chiedersi se davvero qualcuno abbia scelto per noi. Povere bestie come noi, povere bestie come voi. Povere bestie come noi, povere bestie come voi. Secondo me quest'anno, Mauro, siamo partiti con dei dischi della settimana belli carichi, devo dire. Ma sì, ma hai sentito sto pezzone super carico che abbiamo messo adesso? Sì, mi piace, ed è ottimo per iniziare la settimana, secondo me. Adesso ti dico, questo brano che avete appena ascoltato, che abbiamo appena ascoltato, si intitola Povere Bestie, che non è solo il titolo del brano, ma è anche il titolo del disco della settimana che vi presentiamo oggi. Un disco che, come avrete capito, è vagamente rock, cioè proprio così, ha un sentore lontanissimo di rock e di incazzatura. Sì. Appena appena, tra l'altro quest'anno siamo partiti veramente a busso, come si dice da ste parti, no? Abbiamo presentato i Freeze, gli Elephant Brain, e oggi arriviamo con una nuova band. Questo è l'album d'esordio, tra l'altro, Povere Bestie è l'album d'esordio uscito il 24 gennaio per Voodoo Dischi, di una band che a primo impatto, leggendo il nome, ci aspettavamo facesse altro. Sì, io ho letto quando ci arrivano le proposte, no? Uno legge subito il titolo e dice: ma questo qua faranno indie. Cioè, io mi immaginavo un indie pop, una sì, roba un leggera. Synth pop, qualcosa e del genere. Invece no, ecco, il Corpo Docenti, il nome di questa band, in realtà fa della roba incazzatissima, come avete potuto sentire anche voi, e che probabilmente possiamo inserire anche nella scia dei Ministri, dei Fast, dei Cara Calma, Endrigo, Laguna, Balto. Ce n'è un po' di gente in giro che fa sta musica molto carichissima. Esatto. Allora, questo pezzo appunto è la title track di quest'album, che è uscito il 24 gennaio e che viene descritto come: abbiamo voluto elencare tutte le persone o situazioni che almeno una volta ci hanno fatto pensare o dire povere bestie, un appellativo che usiamo sempre con un senso di profonda empatia e compassione, perché alla fine siamo tutti delle povere bestie. E mi piace come cosa. Questa band è una band molto giovane, una band lombarda, dicevamo, che appunto arriva con questo secondo lavoro. Il primo è stato un EP che è uscito nel 2018 e che già un pochino aveva delineato questa identità rock e anche un pochino come temi, aveva affrontato la stessa tipologia di temi. Con questo secondo lavoro, il primo album ufficiale, diciamo, diventano ancora più incazzati e forse delineano ancora meglio la loro identità musicale. Direi che a questo punto vi abbiamo ricordato che l'album è uscito il 24 gennaio, quindi pochissimi giorni fa, e anche che vi diciamo questa band ha suonato sul palco del Festone dei Pancreas pochi giorni fa, quindi insomma, per intenderci dove possiamo posizionarli. Esatto, sabato sera erano all'Alcatraz di Milano in apertura a questo grande evento con un sacco di band, un sacco di musicisti per i 30 anni di vita dei Pancreas. Ma torniamo a parlare del Corpo Docenti. A questo punto vi facciamo ascoltare uno dei singoli, dei tre singoli estratti da quest'album, che è la canzone numero 1, che si intitola Lastre. Il brano riflette su una generazione caratterizzata dall'incertezza e da una condizione di continua precarietà. Beh, insomma, così, senza volerci rispecchiare in questo brano. Ma no, ecco. Ma non sia mai. Ascoltiamo Lastre, che è il primo singolo estratto da Povere Bestie del Corpo Docenti. Sopra delle lastre che non reggono il peso. e torniamo dopo questo secondo pezzo sempre bello carico, che è uno dei 9 brani che compone Povere Bestie. Ricordiamo il primo album uscito il 24 gennaio, quindi pochissimi giorni fa, del Corpo Docenti. Ma chi sono il Corpo Docenti? Allora, il Corpo Docenti sono tutti gli insegnanti che a scuola ti fanno girare i maroni perché ti mettono 4 quando non hai studiato. Ma non solo, perché il Corpo Docenti è anche la band che vi stiamo presentando oggi. Nascono a Milano nella primavera del 2017. Sono un trio, solamente in 3, composto da Lorenzo Benzo Manenti, Federico Carpite e Luca Sernesi. Iniziano a lavorare subito ai primi brani, che prendono vita poi in Scivoli, che è l'EP di esordio della band, uscito il 5 ottobre 2018, prodotto, registrato e mixato da Michele Marelli, che è anche produttore di Mahmood, Bugo e Paletti, al Monolith Studio di Brescia. Dopo il tour che ha seguito l'uscita dell'EP, in cui la band ha condiviso il palco con nomi come i Pancreas, appunto, come dicevamo, ma anche Giorgio Canali, Gomma, i Caracalma, che sono sempre nel nostro cuore, e gli Endrigo, entrano a far parte della squadra della Tube Agency, che comunque ha sempre delle proposte molto interessanti. Da gennaio poi 2019 iniziano a lavorare con Davide Divi, che è il cantante dei Ministri, che li aiuta sostanzialmente nel messaggio e nella creazione di questo loro primo album, entrando ufficialmente, diciamo, in studio a fine agosto dello stesso anno, ecco. Ripetendo peraltro la registrazione al Monolith Studio di Brescia. Terminate le registrazioni, il mastering del disco viene affidato ad Andrea Berni De Bernardi dell'Eleven Mastering. Povere Bestie è uscito appunto venerdì 24 gennaio 2020 per Voodoo Dischi. Ecco, questa è un pochino la storia, diciamo, seppur breve, perché sono nati da pochissimo tempo, del Corpo Docenti, che però, insomma, nati da poco ma hanno già tanto da dire, diciamo. A questo punto direi che possiamo ascoltare un altro pezzo estratto da Povere Bestie. Continuiamo sulla scia dei singoli che hanno anticipato l'uscita dell'album e vi facciamo ascoltare la traccia numero 3, che si intitola Astronave e viene descritta così. Volevamo raccontare quella che ci sembra essere la condizione dei giovani d'oggi, sempre più costretti dentro un sistema che non ammette vie diverse da quelle previste. L'unico modo apparente di sentirsi bene è il rifugio nei vizi o nei sogni impossibili, che danno un senso di tranquillità temporaneo, ma alla fine si traducono spesso in un peggioramento della situazione di partenza. Io devo dire che dopo aver raccontato questi pezzi e cosa contengono questi pezzi e come vengono descritti, a me dà proprio l'idea di una band di generazione XYZ, insomma adesso quasi trentenni o intorno ai 30 anni, di ragazzi che effettivamente parlano di argomenti che sono tipici della nostra generazione, però lo fanno con una certa cazzimma, cioè perché alla fine non sono molto distanti dai temi dei, se vuoi, Ministri, Caracalma, però lo fanno proprio con un piglio molto personale e un po' si fronteggiano a queste cose, a dire questi sono i nostri problemi, beh adesso li risolviamo noi, insomma. Tra l'altro si vede anche che sono di Milano e in una recensione che abbiamo trovato sulla loro pagina FB del Corpo Docenti, l'album viene descritto così: chi vive a Milano sa che questo è il suono di Milano che scappa da se stessa, dentro c'è il suono dell'istante prima dell'alienazione. È una cosa, insomma, magari noi che a Milano non ci viviamo la capiamo meno, quindi appello ai milanesi, spiegateci un po' anche questa cosa. Bene, adesso allora ascoltiamo Astronave e poi torniamo da voi. Ci hanno tolto le ali e non sapevamo nemmeno volare. Forse l'ambizione che ci tenta, forse è il silenzio che li calma. Ci hanno rinchiuso in un pensiero, ma adesso pensano loro e noi ordiniamo da bere. Fatemi fare un giro in astronave, vorrei imparare a guardarvi dall'alto. Fatemi fare un giro in ambulanza, magari è la prospettiva che cambia. Le ali e noi volevamo soltanto cadere. Ci hanno raccolto sul sentiero, ma adesso ci sentono loro e noi ordiniamo da bere. Fatemi fare un giro. Allora, abbiamo ascoltato anche questo pezzo che a me piace tanto e possiamo un po' concludere questa scoperta di questo album che ricordiamo si chiama Povere Bestie, è uscito il 24 gennaio, quindi pochissimi giorni fa, ed è il primo lavoro di Il Corpo Docenti che arriva dopo in realtà un EP di esordio del 2018. Che cosa dicono di questo album? Povere Bestie vuole essere un disco generazionale che racconti la condizione giovanile attuale. Trasferirsi da una periferia ad una città, nel caso specifico appunto dicevamo Milano perché i ragazzi sono di Milano, in cerca di una realizzazione professionale, affrontando così temi come la precarietà, l'ipocrisia delle assunzioni, la difficoltà nel trovare il lavoro e un progressivo disinteresse al mondo della politica. Insomma, tutti quei temi che dicevamo sono un pochino caratterizzanti di una certa generazione. D'altro canto c'è il passato, la nostalgia di un'infanzia ormai lontana, il senso di colpa per aver inevitabilmente trascurato gli affetti, lasciati alle spalle per cercare una nuova vita altrove. Si passa da momenti più introspettivi e personali, in cui viene messo al centro l'individuo, ad altri in cui il confronto nasce dall'interno, per poi abbracciare la collettività. Un lavoro che vuole provare a raccontare la disillusione che inevitabilmente cresce quando si è ormai nell'età adulta. Ed effettivamente sono tutti temi che abbiamo già ritrovato in questi pezzi e che dicevamo fanno un po' da collante per alcune band che abbiamo pian piano scoperto. Stiamo appunto presentando Povere Bestie, l'album d'esordio del Corpo Docenti che è uscito il 24 gennaio 2020 per Voodoo Dischi, mixato e curato dal grandissimo Divi dei Ministri, che io stimo tantissimo. E infatti si sente molto, anche la presenza dei ministri nel lavoro del Corpo Docenti. Si sente molto, sì. Infatti Divi ha anche curato la produzione artistica insieme alla band di quest'album, quindi li ha molto aiutati anche a cercare di delineare, diciamo, il loro suono caratteristico. Quindi adesso vi lasciamo un altro brano, che è anche l'ultimo singolo dei tre estratti dall'album. E vi diciamo solo l'ultima cosa: l'artwork, la copertina, che è molto carina, è tipo una trappola per topi, è stata disegnata dall'illustratrice Margherita Morotti, che merita una citazione nel nostro disco della settimana. Decisamente. Infatti se guardate poi anche il profilo Facebook del Corpo Docenti viene ripresentata questa copertina, ma ci sono altre illustrazioni che rimandano a questo gioco sulla trappola per topi. proprio, insomma, carino da vedere. Scoprite anche tutte le informazioni sulla pagina Facebook. A questo punto vi facciamo ascoltare Siria, che è stato appunto estratto da quest'album che ricordiamo è uscito il 24 gennaio ed è la sesta traccia dell'album. Siria è un rapporto tra due persone distanti, sia geograficamente che anagraficamente, un brano dedicato a quegli affetti che a volte ci sentiamo di trascurare. E infatti su Facebook, appunto, quando è uscito questo brano, il Corpo Docenti ha deciso di dedicarlo a tutte quelle persone che si sono un po' perse per strada, ecco. Vi lasciamo con allora con l'ascolto di Siria e speriamo che questo disco della settimana vi sia piaciuto. Per ora non abbiamo informazioni sulle prossime date della band. Se ragazzi ce le volete fare sapere, noi siamo decisamente felici. Vi lasciamo con Siria del Corpo Docenti e buona settimana a tutti. Un giorno ti racconterò della vita qui in città, di quanto sia stancante passare i weekend in treno. Sentire una voce che ti legge il quotidiano mentre tu te ne stai lì con gli occhi fissi nel vuoto. D'inverno torno a trovarti, questa volta te lo prometto. Farà freddo e pioverà, tu aspettami ancora una volta e aspettami ancora una volta. Un giorno ti racconterò di quanto costa il sole, di quanto sia appagante respirare un'altra notte in treno. E ci sarà una luce che rimane sempre accesa, ormai è soltanto un vizio addormentarmi mentre ritorno a casa. Questa volta te lo prometto, farà freddo e pioverà, tu aspettami ancora una volta e aspettami ancora una volta. D'inverno torna a trovarti, questa volta te lo prometto, non te ne andare via, ho bisogno di qualcuno che mi aspetti.